Euroreportage. Pompei, l'Europa, via per la rinascita. Gioiello e tormento. Pompei è così, un sito archeologico che il mondo ci invidia, che l'Italia non riesce a salvare, che nell'Europa potrebbe trovare l'ultima ancora di salvezza. Ci arriviamo come molti turisti, 2,5 milioni all'anno. Ci arriviamo da Napoli con la Circumvesuviana, la stessa su cui, in assoluto anonimato, è salito il 1° maggio anche il neo ministro per i beni culturali, Massimo Brai, per la sua prima visita. Colto in flagrante solo da una passeggera più attenta di altri. Per lui la brutta avventura, non inconsueta, di un guasto sulla linea. A noi, per fortuna, va meglio. Stazione di Via del Monte. Prossima fermata, Villa delle Ginestre. Next stop, Villa delle Ginestre. L'accoglienza non è comunque delle migliori, c'è da dirlo, come denunciano da tempo gli attivisti della zona e la stampa internazionale. Il New York Times ha scritto senza mezzi termini che quel che non ha fatto il Vesuvio qui lo sta facendo la burocrazia. Tra i più accaniti a denunciare i mali di Pompei, l'architetto Antonio Irlando dell'Osservatorio Patrimonio Culturale, che ha acceso i riflettori e lanciato allarmi. Ci attende per ricordarci che qui è davvero l'ultima occasione. Il biglietto da visita purtroppo non è dei più belli, perché basta, non so, arrivare con il trenino per scoprire che c'è una piccola scala addirittura pericolosa per attraversare e raggiungere l'uscita della stazione. Per chi arriva in macchina bisogna fare una strada dove non è bello vedere tutta una serie di erbacce, strade tenute male. Del resto, essere sito UNESCO significa anche immaginare una gestione corretta di tutto il contesto, per cui sicuramente è uno dei motivi che potrebbe inficiare la permanenza di Pompei nei siti UNESCO. È l'ultima occasione che, importante che ha Pompei per invertire il suo destino di distruzione, certamente è un'occasione da non sprecare. Perché gli occhi dell'Europa puntati su di noi ci hanno obbligati a farlo? Assolutamente sì. L'Europa, ultima occasione, è il progetto Grande Pompei, 105 milioni di euro, 48 dei quali in arrivo da oltre confine, per provare a fermare il degrado e i crolli più o meno annunciati. Un progetto voluto dallo stesso commissario europeo per le politiche regionali, Johannes Hahn, arrivato qui il 6 febbraio, dopo l'ennesimo crollo, il più eclatante dei quali fu quello della scuola Armaturarum, che, non la sola, ancora attende un restauro. Il commissario europeo ci è arrivato per salvare un gioiello che non è solo italiano, ma mondiale e dunque europeo. Vogliamo finanziarlo anche per rilanciare l'economia, dice Hahn, in un'Italia che vanta un patrimonio culturale inestimabile, ma che solo dal 2000 al 2011 ha perso il 24,5% delle risorse del bilancio del Ministero dei Beni Culturali, un quarto in pratica, e che oggi è tristemente all'ultimo posto in Europa per percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura, l'1,1%. Spende più di noi anche la pur disperata Grecia, per non parlare della Germania, che alla cultura dedica l'1,8% del PIL, la Francia il 2,5%, il Regno Unito il 2,1%, ma gioielli come Pompei forse se li sognano. È il modello Pompei dunque che potrà rilanciare la cultura italiana per la via che passa dall'Europa? Proviamo a chiedere come sta andando alla direttrice degli scavi, Grete Stefani. I soldi fisicamente a voi sono arrivati, è andato tutto bene, cioè l'Europa finanzia, sta arrivando tutto? Sì, certo. Non è rimasto sulla carta? No. Allora, 105 milioni, per ora quanti ne sono stati spesi o destinati? Spesi? Non sono stati ancora spesi, perché i lavori sono cominciati ora, quindi... Di questi 5 bandi ne sono stati assegnati 2, me lo conferma? Sì, la casa dei Dioscuri e la casa del Criptoportico. Altre gare sono già state fatte. Almeno altri 2 sicuramente, che la casa del marinaio e la casa di Sirico. diciamo prima dell'estate, credo che anche gli altri due cantieri potranno essere avviati. C'è un progetto in particolare tra quelli di Grandi Pompei che è quello del controllo del rischio idrico, problema vero di Pompei. Su questo state lavorando? La gara è in corso, che viene eseguita per la prima volta su piattaforma informatica, proprio per accelerare i tempi. Dunque, il progetto più ambizioso deve ancora prendere avvio. Uno dei mali di Pompei è infatti proprio l'acqua. Acqua piovana che cade dal cielo, ma soprattutto che si accumula nelle strade, impregna i muri, sgretola l'antica calce e quei rivestimenti che sono, ci dice ancora Irlando, l'anima bella di questi luoghi. Il legno a contatto con la muratura inzuppata d'acqua marcisce. Quindi qui c'è un pericolo potenziale di una trave che marcisce e quindi crolla il tetto. Domani potremmo sapere che in questa casa è crollata una trave del porticato, come si sta disgregando parte del mosaico, come vediamo si sta perdendo, si sta disgregando ogni giorno. E allora che fare? Uno degli obiettivi del progetto europeo è, dicevamo, proprio fermare l'acqua. Un primo progetto è già stato avviato negli ultimi anni. Sotto la città scorre infatti un canale cinquecentesco, il tunnel del Conte di Sarno. Ripulito e riattivato, comincia a convogliare e portare lontano gran parte dell'acqua piovana. Ma è con i fondi europei che si cercherà di mettere a segno un punto importante. Ancora la direttrice degli scavi. Il canale Conte di Sarno raccoglierà tutta l'acqua piovana che è naturalmente convogliata nelle strade, quindi anche il progetto che prevede la mitigazione del rischio idrogeologico nella zona non scavata della regione Nona avrà la possibilità di convogliare l'acqua di questa zona per allontanare l'acqua piovana dalla città. Senza i fondi europei sareste riusciti a fare questi interventi? Sì, ma con molto diluiti nel tempo. Quindi diciamo il vantaggio è stato avere tanti fondi insieme per poter intervenire non soltanto sui restauri delle case, ma soprattutto mettere in sicurezza tutte le isole prima ancora di procedere al restauro dei vari edifici. La cosa in più che viene consentita dall'avere così tanti fondi. Lei pensa che ci sia ancora la via di una collaborazione con l'Europa per andare avanti? Le è parso una buona soluzione? Io spero. Sarà anche nostro compito far vedere alla comunità europea che averci dato fiducia può essere un buon motivo per continuare a darcela. Un sogno di cui per le strade di Pompei i segni per ora non sono che cartelli che annunciano lavori imminenti, lucchetti chiusi, cantieri blindati. Ma sentivamo, l'Europa ci guarda e l'impressione è che sia davvero l'ultima occasione. Occasione nel bene e nel male. Il commissario Hahn era stato chiaro. La corruzione è sempre un tema sensibile quando si tratta di finanziamenti. Ho sempre detto che noi vogliamo preservare la tradizione culturale e non certo quella criminale. E sono anche certo che il nuovo sistema antifrode che abbiamo messo a punto a livello di Commissione europea sia estremamente efficace per evitare l'impatto di gruppi criminali e mafiosi e perché sia infine un contributo alla lotta alla corruzione. Non un euro andrà alla criminalità, si disse. L'Europa ha voluto un pool di controllori ad hoc proprio per questo. A capo c'è il prefetto Fernando Guida e allora parliamo anche con lui. Protocollo che prevede anzitutto l'estensione dei controlli antimafia della prefettura su tutte le ditte appaltatrici e subappaltatrici e fornitrici del grande progetto Pompei, indipendentemente dal loro importo, perché come sappiamo attualmente i controlli sono previsti solo per gli appalti da una certa soglia economica in su. Questa soglia è stata soppressa solo per il protocollo Pompei. Questi controlli maggiori stanno rallentando l'assegnazione degli appalti? Si dice spesso che l'Europa porta più burocrazia e più lentezza. Direi di no. Ci ha consentito non solo di rispettare i tempi ordinari, ma addirittura di ridurli di molto per quanto riguarda i controlli antimafia. 105 milioni di euro sono tanti. Avete avuto la sensazione che questi soldi facciano gola a qualcuno? Sicuramente sì, tant'è che le posso so dire che già una delle ditte che aveva avuto uno dei primissimi affidamenti è stata raggiunta da un provvedimento interdittivo della Prefettura di Napoli. Alla fine ripartiamo tra luci ma anche ombre, e pensare che proprio al modello Pompei, a pochi chilometri da qui, guarda anche la città della scienza, Bagnoli, a Napoli, e guardano altri gioielli italiani, da Milano alla Calabria, che con i soldi dell'Europa potrebbero rinascere. Ce la farà Pompei? E quante altre occasioni potrebbero esserci ancora da cogliere? Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.